Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Iran, la guida suprema Khamenei alla preghiera pubblica, attacca l'America, abbiamo schiaffeggiato gli arroganti e Trump è un clown. No al referendum elettorale, Salvini accusa la Corte Costituzionale è una sacca di resistenza del vecchio sistema. Migranti, dati Frontex, sbarchi in calo del 92% rispetto a 5 anni fa. Intanto la Cassazione conferma, Carola Rackete non andava arrestata. Roma, smog oltre i limiti nonostante il blocco dei diesel, sforamenti in 11, centraline ARPA su 13. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24, effetto giorno, nei prossimi 15 minuti la sintesi della giornata di oggi, poi a partire dalle 13.15 tutti gli approfondimenti. Cominciamo andando all'estero, in Iran in particolare, perché la guida suprema Ali Khamenei alla preghiera pubblica di oggi, alla quale non partecipava da molto tempo, è tornato ad attaccare l'America. Abbiamo schiaffeggiato gli arroganti, ha detto. Sentiamo. Per la prima volta dal 2012 l'Ayatollah Khamenei torna a guidare la preghiera del venerdì e lancia nuovi strali contro gli Stati Uniti. Il fatto che l'Iran abbia il potere di schiaffeggiare un arrogante dimostra che Allah ci sostiene, ha detto stamattina la guida suprema iraniana parlando davanti a migliaia di persone riunite a Teheran. La nostra rappresaglia dopo l'assassinio del generale Soleimani è stata un colpo agli Stati Uniti come superpotenza, ha affermato Khamenei. Dopo le rivelazioni della CNN, il Pentagono oggi ha confermato che a seguito degli attacchi missilistici iraniani, 11 militari statunitensi sono stati ricoverati con sintomi di commozione cerebrale. All'indomani dei raid, l'amministrazione americana aveva invece affermato che non c'erano stati feriti, ma solo danni alle strutture. Nel suo discorso Khamenei ha anche definito Trump un pagliaccio che finge di sostenere il popolo iraniano per poi colpirlo alle spalle e ha accusato gli Stati Uniti e i loro alleati di manipolare le proteste in corso in questi giorni in Iran. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo sulla pagina internazionale. Carola Rackete non andava arrestata. La Cassazione ha infatti bocciato il ricorso del PM di Agrigento contro l'ordinanza che lo scorso 2 luglio aveva rimesso in libertà la comandante della nave Sea-Watch. Intanto, secondo gli ultimi dati, si confermano in calo le partenze e gli sbarchi di migranti verso l'Italia negli ultimi 5 anni. Carola Rackete non andava arrestata. Così la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Agrigento contro l'ordinanza con cui lo scorso 2 luglio il GIP di Agrigento aveva deciso di non convalidare gli arresti domiciliari per la comandante della Sea-Watch 3. Rackete era stata arrestata dopo che il 29 giugno aveva portato la nave nel porto di Lampedusa facendo sbarcare 40 migranti che erano a bordo da più di 2 settimane andando contro il divieto emesso dall'ex ministro dell'Interno Salvini previsto dal cosiddetto decreto sicurezza bis. Intanto vanno avanti i soccorsi in mare. Questa mattina all'alba 39 migranti sono stati salvati al largo delle coste libiche dalla Ocean Viking. Il soccorso è stato difficile con onde alte e vento forte. In mattinata sono stati diffusi dati di Frontex che confermano un decisivo calo degli approdi per il 2019 mostrando un calo generale del 6%, il 92% in meno rispetto al picco del 2015. Cambia anche la rotta con un aumento dei passaggi nell'area del Mediterraneo orientale e lungo la rotta balcanica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo in Italia con la politica. Il governo aveva annunciato la riforma fiscale. Bene, oggi il presidente del Consiglio Conte incontra i sindacati per parlare di riforma fiscale e del taglio delle tasse nelle buste paga dei lavoratori. Il taglio del cuneo fiscale è in cerca di una definizione. In questo momento è ancora in corso la riunione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri con i segretari generali di CGIL, CISL e UIL Maurizio Landini, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo. Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha fatto il punto sulla proposta che dovrebbe consentire il taglio delle tasse in busta paga per oltre 14 milioni di dipendenti. Per i sindacati, che ieri si sono detti pronti a scendere in piazza in mancanza di risultati e risposte soddisfacenti, la riduzione del cuneo fiscale non è che il primo passo. L'agevolazione a cui sta lavorando il governo in vista del decreto attuativo di gennaio divide in tre famiglie la platea di oltre 14 milioni a cui si rivolge. Il gruppo più grande, di circa 11,7 milioni di contribuenti, è quello che riceverà il bonus Renzi rafforzato, con l'aumento a 100 euro al mese degli attuali 80. La cifra da 80 euro riguarderà invece un secondo gruppo da 2,4 milioni di contribuenti che oggi non hanno diritto al bonus Renzi. C'è poi una terza fascia che conta circa 900.000 persone che riceverà un beneficio decrescente all'aumentare del reddito. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo la bocciatura del referendum elettorale da parte della Corte Costituzionale, il leader della Lega Salvini è tornato ad attaccare la Consulta dicendo è una sacca di resistenza del vecchio sistema. Sentiamo. La bocciatura del referendum si trasforma presto in scontro istituzionale. La Consulta è una delle ultime sacche di resistenza del vecchio sistema, attacca Matteo Salvini all'indomani della decisione della Corte Costituzionale sul no al quesito spinto dalla Lega per introdurre il maggioritario puro, togliendo la quota di proporzionale all'attuale legge elettorale. Per Salvini è una scelta contro la democrazia, poi si andrà a votare perché questi, dice, litigano ogni giorno. La decisione della Consulta ha allontanato la democrazia, non il voto. Ma la maggioranza è al lavoro per una nuova legge elettorale che allontana l'ipotesi del maggioritario, reintroducendo un proporzionale puro con sbarramento al 5%, ovvero il Germanicum. E a questo proposito anche Matteo Renzi aderisce alla nuova ipotesi, sicuro che lo sbarramento alto non è un problema per Italia Viva, perché lo supererà e arriverà a doppia cifra. Ma Renzi aggiunge anche: nessun modello può permettere di scegliere il governo per 5 anni. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Torneremo su questo, sul referendum elettorale, sulla bocciatura della Consulta nella seconda parte di Effetto Giorno con l'intervista a Giancarlo Giorgetti. Adesso parliamo di sicurezza perché dopo l'esito positivo della sperimentazione in 12 città italiane, il taser, la pistola elettrica o il dissuasore elettrico entrerà presto in dotazione di alcune forze dell'ordine. Il Consiglio dei Ministri approva oggi in via preliminare il regolamento che disciplina l'impiego del taser. In seguito, dopo un passaggio al Consiglio di Stato per un parere, il testo del provvedimento tornerà in Consiglio dei Ministri per l'ok definitivo. Già utilizzato in via sperimentale in 12 città dal settembre 2018 fino al giugno scorso, il taser farà così parte della nuova dotazione e potrà essere portato nella fondina delle forze dell'ordine come nuovo strumento di dissuasione, oltre allo sfollagente, alla pistola, fucile e al mitragliatore. Sollecitato dai sindacati di polizia, il taser non è altro che una pistola che spara scariche elettriche per immobilizzare i malintenzionati. Impiegata da qualche anno dalle polizie di molti paesi del mondo, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, alla Francia e un centinaio d'altri ancora, non mancano però le voci critiche sul suo utilizzo, come quella di Amnesty International e del garante dei detenuti Mauro Palma, che ritiene il suo utilizzo giustificato solo in un numero molto limitato di casi. Adriana Fracchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nonostante i limiti al traffico, resta alto il livello di smog in molte città italiane, anche a Roma. Le ultime rilevazioni dell'ARPA attestano infatti una crescita delle centraline con sforamenti del limite di PM10. Ieri, giorno dell'ultima rilevazione dell'ARPA, 11 su 13 centraline sono risultate fuori legge. E ora parliamo delle novità dell'agricoltura italiana. Arrivano dagli Oscar Green, il Salone della Creatività Made in Italy, spazio ai giovani cervelli che restano in Italia e si inventano un lavoro, come dimostrano le innovazioni per il 2020, come quella per esempio di Flavia Amato, che con Malia crea abiti eterni grazie ad antiche lavorazioni di lino e canapa, oppure Leonardo Belotti, che in Lombardia con Mondo Asino ha creato Arlecchino, il primo formaggio di latte d'asina. Storie che ha raccolto per noi Anna Marino. Mi sono ritrasferita in Calabria, è un piccolo paesino in provincia di Catanzaro sul versante ionico che si chiama Guardavalle e tra l'altro da poco mi sto attivando nella mia zona a fare un recupero anche dei telai dismessi, perché ci tengo a far sì che portando questi telai da noi in atelier possiamo aprire anche, diciamo, una zona didattica per far venire le scuole da noi e far vedere ai giovani quello che è il nostro potenziale. Dal 2010 abbiamo preso i primi asinelli, Abbiamo iniziato per pulire dei territori, dei pascoli di famiglia. E poi, siccome io da quando ero piccolo avevo testine basse, il pediatra ti ha suggerito di utilizzare il latte d'asina per la mia salute. Da qui è nata un po' l'idea di offrire questa possibilità anche a altre persone che ne avessero bisogno. Più vicino al latte materno come caratteristiche organolettiche, è molto consigliato come sostitutivo naturale ai latte artificiali. Servono tanti asini per la produzione di poco latte, questo permette di avere un mantenimento del territorio, dei pascoli, molto sostenibile. E ora parliamo dell'ennesima novità di una delle più grandi piattaforme digitali al mondo. Spotify lancia infatti le playlist musicali per cani e gatti. Sentiamo. Non solo giochi e croccantini per allietare la giornata di cani e gatti, soprattutto quando restano a casa da soli, si può fare affidamento anche sulla musica. Ne è convinta Spotify, la piattaforma per la musica in streaming numero uno al mondo, che ha lanciato le playlist personalizzate per gli animali domestici. L'iniziativa, forte di un sondaggio che Spotify ha effettuato su 5.000 utenti italiani, spagnoli, britannici, statunitensi e australiani, è l'ennesima conferma di un mercato, quello della pet economy, che macina cifre da capogiro grazie a prodotti e servizi dedicati. Dal cibo gourmet, dolci compresi, ai trattamenti di bellezza, dall'abbigliamento su misura alle polizze assicurative fino ai fondi di investimento. In Italia ci sono più di 60 milioni di animali domestici, più o meno quanto i cittadini. Il mercato vale 5 miliardi di euro e la spesa delle famiglie per gli animali è quasi tre volte superiore a quella per i bambini. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:11, facciamo una pausa, torneremo tra poco con Effetto Giorno in diretta oggi da Vicenza Oro, il salone, la fiera vetrina delle eccellenze italiane ed internazionali del comparto orafo e gioielliero, gli studi di Radio 24, tra l'altro vi ricordo che sono al padiglione 8, quindi venite a trovarci, siamo qua nella seconda parte di Effetto Giorno, torneremo sulla bocciatura della Corte Costituzionale del referendum proposto dalla Lega e sarà con noi Giancarlo Giorgetti e poi strade e autostrade, mentre i periti del Tribunale di Genova accusano i legali di Autostrade di aver fatto pressioni su di loro durante l'incidente probatorio e mentre invece Autostrade annuncia un piano di investimenti da 7,5 miliardi in 4 anni, parleremo di un caso che non riguarda Autostrade ma un tratto di strada in gestione all'ANAS, un tratto di Aurelia, dopo una frana è stato il sindaco a dover intervenire a invocare l'intervento dell'ANAS. E poi, come detto, storie da Vicenza Oro, il settore, le possibilità occupazionali, le tendenze. Insomma, tra poco 349-238-6666 per i vostri messaggi. C'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno, tra poco. Maestro SD-One, aiutami! Le reti della mia azienda stanno passando al lato oscuro! Non temere, ecco la tua arma, la fibra intelligente di Iridios. È intelligente perché ha sempre tutto sotto controllo, accessi, cloud, applicazioni, si integra con tutte le tecnologie, ADSL, fibra, wireless di qualunque operatore e poi si attiva in un laser, volevo dire in un lampo. Vai su fibraintelligente.it. Fibra intelligente, la soluzione SD-One di Iridios, il nuovo polo ICT italiano dedicato alle aziende. Effetto Giorno. Dopo la bocciatura del referendum elettorale da parte della Consulta, la Lega rilancia, raccogliamo le firme per altri referendum a Effetto Giorno, Giancarlo Giorgetti. Iran, la guida suprema Ali Khamenei alla preghiera pubblica attacca l'America, abbiamo schiaffeggiato gli arroganti e Trump è un clown. Migranti, dati Frontex, sbarchi in calo del 90% rispetto a 5 anni fa, intanto la Cassazione conferma, Carola Rackete non andava arrestata. Caponoli, il sindaco chiede controlli per la frana sotto l'Aurelia, per l'ANAS non c'è nessun pericolo ma il cedimento preoccupa gli automobilisti. Al via da oggi Vicenza Oro, la fiera delle eccellenze italiane ed internazionali nel settore orafo e gioielleria, tendenze e opportunità lavorative, tra poco a Effetto Giorno. Ecco noi Giancarlo Giorgetti, buongiorno, benvenuto, onorevole della Lega. Buongiorno. Buongiorno. Allora, parliamo della bocciatura da parte della Corte Costituzionale del quesito referendario che voi avevate proposto per l'abolizione della quota proporzionale della legge elettorale e quindi, diciamo, correggere il sistema verso un sistema maggioritario. La Consulta Giorgetti, a quello che si è capito, ha bocciato il quesito perché lo ha definito manipolativo nella parte, se abbiamo capito bene, del quesito che riguardava la delega del governo a ridisegnare i collegi dopo un'altra riforma, quella costituzionale del taglio dei parlamentari. Quindi c'era un intreccio di leggi che ha in qualche modo creato questa situazione. Il leader della Lega, Salvini, però ha avuto parole pesanti per la Consulta, ha detto è una sacca di resistenza del vecchio sistema, un attacco politico. È una sentenza politica, è d'accordo Giorgetti con Salvini? Ma io non dico che è una sentenza politica, è sicuramente una sentenza che ha degli effetti politici. Agli effetti politici di dare sostanzialmente il via libera, una benedizione a un sistema elettorale proporzionale che purtroppo è quello che garantisce sicuramente l'inconcludenza, il rinvio, l'incapacità di decidere tempestivamente, rapidamente come il mondo moderno richiederebbe. Noi abbiamo cercato di dare un contributo per arrivare a un sistema elettorale efficiente, ribadisco moderno, che permetta all'elettore di dare un voto e di sapere il giorno delle votazioni chi ha vinto e permettere a chi ha vinto di governare per 5 anni. E purtroppo così si tornerà indietro, la maggioranza ha annunciato che vuole tornare alla preistoria e quindi è un metodo di lavoro che prevede i soliti vertici che durano tutta la notte, che non decidono niente e che condannano sostanzialmente il Paese all'impotenza. Ne prendiamo atto e andiamo avanti, ecco. Avete però annunciato delle altre iniziative, per esempio che potreste raccogliere, coinvolgere per esempio le regioni di centrodestra nella parte in cui è prevista la loro partecipazione ai consigli regionali alla formulazione di nuovi quesiti referendari contro leggi dell'attuale governo. Avete già in mente qualcosa? Ma noi semplicemente aspettiamo di capire se questo governo decide qualcosa. Per adesso rinvia tutto e non decide niente e ribadisco non fa il bene al Paese. Certamente se questo governo prenderà delle decisioni contro gli interessi degli italiani e palesemente in contrasto a quello che è l'orientamento maggioritario del Paese, ad esempio in termini di immigrazione, sicuramente cercheremo di utilizzare l'unico strumento, l'unica arma che a questo punto avremmo, cioè quello del referendum per chiamare la voce del popolo. Peraltro io penso che tutto il comportamento da parte del governo sia proprio orientato in questo senso, consapevoli che non hanno la maggioranza dei voti, cercano o attraverso leggi elettorali e altre scamotage in qualche modo di garantirsi il più lungo possibile questa permanenza al potere, però prima o poi questo finirà, ecco. Compresa un'iniziativa per un disegno di legge sul presidenzialismo, una strada lunga, Giorgetti, perché un disegno di legge di riforma costituzionale, insomma, poche volte sono andati in porto. Poche volte sono andati in porto, ma credo che questo possa essere uno dei punti fondanti del programma di governo del futuro centrodestra. Quindi una raccolta di firme per un disegno di legge in questo senso che potrebbe diventare un anticipo di quello che poi è il programma elettorale della Lega per le prossime elezioni, qualcosa del genere. Giorgetti, le faccio sì. Vorrei farle sentire un audio, è un suo audio tra l'altro, così le do l'opportunità anche di riconciliarsi con i calabresi. Sentiamo un attimo perché. Le persone che l'elettrice e gli elettori, certo, lì vince il centrodestra di sicuro, lei dice. È questo che sta dicendo. Dice lei, però non interessa nessuno, nel senso che è chiaro che il significato politico dell'Emilia è diverso da quello della Calabria. Certo. Insomma, non interessa a nessuno, è stato frainteso. Qualcuno ha pensato che la Calabria non interessasse a nessuno. Io non posso dire soltanto che i sondaggi li hanno in mano tutti. Diciamo così, gli addetti ai lavori, è perfettamente chiaro, non so se si può dire, ma credo è evidente che in Calabria il centrodestra goda di un grande vantaggio, ma soprattutto storicamente il significato politico di una regione come l'Emilia-Romagna, diciamo così, storicamente governata dalla sinistra, dal Partito Comunista prima e oggi dal Partito Democratico, tutti gli occhi in Italia e anche in giro per l'Europa e forse anche qualcuno in giro per il mondo sono puntati sull'Emilia Romagna. Dire il contrario sarebbe in qualche modo dire il falso, è semplicemente questo. Va bene, grazie a Giancarlo Giorgetti, grazie per essere stato con noi. E così abbiamo anche fatto anche questo, abbiamo riconciliato Giorgetti con i calabresi. Suonava un po' come la frase di Conte sull'Umbria, con tutto il rispetto per l'Umbria, a meno abitanti, non mi ricordo di quale città italiana. Insomma, la regione Calabria sicuramente non è una regione centrale nella prossima disputa elettorale, lo sarà di più l'Emilia Romagna. Vediamo se le scuse di Giorgetti arriveranno a destinazione, dei calabresi saranno accettate. Adesso, come annunciato, siamo in diretta dal padiglione 8, Radio 24 trasmette dal padiglione 8 di Vicenza Oro, la fiera del settore orafo e gioielliero qua di Vicenza, dove ci sono in vetrina le più grandi eccellenze italiane ed internazionali. Si parla dell'andamento del settore, si parla delle opportunità anche lavorative per i giovani italiani, insomma nuove sfide da affrontare per un settore che è in crescita. Sentiamo Carmela Gatta. Creatività, sostenibilità e innovazione sono le sfide del 2020 per il mondo orafo gioielliero italiano, con l'oro e i gioielli made in Italy che tornano di riferimento per il mercato internazionale. Dopo un rallentamento dell'esportazione nel 2018, lo scorso anno il bel paese è riuscito a ripartire. Nel 2019, infatti, le vendite all'estero sono cresciute del più 7,8%, per un incremento di più di 5 miliardi di euro. La riaffermata centralità del prodotto italiano per i brand di tutto il mondo è uno dei temi di Vicenza Oro. Perché l'Italia è tornata al centro del mercato internazionale? Marco Carniello, direttore di Vicenza Oro. Stiamo lavorando per mantenerla al centro e tenerla sempre più rilevante per la produzione mondiale. Consideriamo che il 55-60% della totale produzione al mondo di gioielli è fatta da due colossi come Cina e India. Poi veniamo noi, ma abbiamo un 4-5%, quindi molto dopo. Ci siamo sempre posizionati su un tipo di gioielleria e oreficeria di altissima qualità. Noi vogliamo mantenere questo posizionamento sia con brand italiani che producendo per brand francesi o altri che però puntino sulla qualità. Quello orafo gioielliero è uno dei comparti manifatturieri di punta del Made in Italy. Impegna circa 8.000 aziende e 31.000 lavoratori. Un settore che non solo conserva le tradizioni, ma punta a innovarsi con nuovi progetti. A Vicenza Oro c'è uno spazio interamente dedicato alle start-up e ai giovani studenti e ricercatori. Si guarda al futuro e alle tecnologie di ultima generazione, senza però dimenticare il passato. Carmela Gatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza. Minuti di nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori con Effetto Giorno e, come avete sentito, oggi in diretta da Vicenza Oro. Tema invece strade e autostrade, perché mentre si viene a sapere che durante l'incidente probatorio al Tribunale di Genova, dove si indaga sulle manutenzioni e sui controlli da parte della società autostrade sulla rete autostradale italiana dopo il crollo del ponte Morandi, si viene a sapere che i periti del giudice hanno denunciato di aver subito pressioni da parte dei legali di Autostrade. Proprio ieri Autostrade ha fatto un passo in avanti e ha proposto un piano di investimenti a 7,5 miliardi di euro per i prossimi 4 anni per fare manutenzione e anche nuovi investimenti, l'assunzione di 1000 persone e queste insomma sono le ultime notizie. Vi proponiamo invece, vi parliamo di un caso che non riguarda Autostrade ma riguarda la rete stradale comunque italiana. Siamo in Liguria, il sindaco di Noli due giorni fa ha emesso una ordinanza nei confronti di ANAS per adottare qualsiasi misura cautelativa, compresa la totale chiusura al transito di un tratto di strada sotto il quale c'era stata una frana. Ebbene, ha dovuto attendere il sindaco alcuni giorni prima che l'ANAS intervenisse e rassicurasse: la strada è sicura. Tra gli automobilisti però sembra che rimanga una certa preoccupazione, perché a vista d'occhio la frana è davvero imponente. Con noi il sindaco di Noli, in provincia di Savona, Noli Ligure, Lucio Fossati, benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a tutti coloro che in questo momento ci ascoltano. Sì, indubbiamente... Ecco. Ci racconti un po' quanto tempo ci è voluto, sindaco, perché l'ANAS effettivamente intervenisse? Ci è voluta anche una sua ordinanza? Sì, anche perché fortunatamente insomma, esiste questo strumento che io ho ritenuto più che opportuno, ma soprattutto doveroso utilizzare proprio per stringere al più possibile i tempi. C'è la possibilità di indicare di ordinare entro una certa data, quindi una certa tempistica, che sono giorni 7, un loro intervento, e così hanno dovuto, hanno ottemperato ovviamente, sono venuti, hanno fatto delle loro verifiche, proprio ieri ho ancora saputo che hanno raccolto parecchi dati e ora stanno lavorando su questi dati al fine poi prendere le misure, adottare le misure necessarie. Ci siamo resi conto di questa situazione che... Sì. Prego, prego. Prego, la faccio parlare. Le immagini sono decisamente eloquenti, chiunque appunto a fronte di determinate immagini era quantomeno, insomma, era, quello che ho fatto è normale, non è niente, però a vedere quelle... quello che ha fatto è normale, lo spieghiamo agli ascoltatori. Le immagini sono state riprese da un drone dei vigili del fuoco. La frana è stata aggravata dalla mareggiata del 23-25 novembre scorso, che ha scavato ancora nella roccia, già di per sé una roccia friabile che regge quel tratto in particolare di Aurelia, e le immagini sono molto impressionanti perché fanno vedere la voragine che si è creata a pochi metri sotto quel tratto di strada. L'ANAS adesso dice che la strada è sicura, ma voi quindi vi ritenete tranquilli? Guardi, lì la competenza, le risorse, il know-how e le figure umane con le competenze per poter affermare una cosa del genere ovviamente le hanno loro. Loro sostengono che tutto sommato c'è ancora un certo margine di serenità, di tranquillità, e quindi se vuoi prendiamo atto, aspetto ovviamente che formalizzino tutto. Hanno però deciso di appunto effettuare una serie di rilevazione di alcuni dati, perché ripeto, è evidente che c'è qualche problema. Tuttavia loro sostengono che anche quando fosse necessario intervenire, tra l'altro dicono che avevano anche messo già in preventivo fare una certa opera strutturale, appoggeranno una palificazione direttamente sulla roccia, la quale garantirà la sopravvivenza, diciamo così, la solidità della strada, anche se poi sotto, come è probabile accada, franasse tutto. Adesso grazie, tecnicamente sindaco. Non sono in grado di dirle come faranno, però queste sono le loro assicurazioni, per cui io, noi doverosamente ringraziamo e andiamo. Assolutamente. Sindaco Lucio Fossati, grazie per essere stato con noi, e noi abbiamo voluto raccontare questa storia per così, perché è un fatto di cronaca, ma anche per dare l'idea di quanto complessa sia la situazione sulle strade, sulle autostrade italiane, va oltre anche i tratti in gestione a autostrade, questa è una strada statale in gestione di all'ANAS. E come avete sentito, insomma, anche in questo caso i problemi e gli investimenti da fare non mancano. Sono le 13:28 minuti, effetto giorno fa una pausa, torniamo tra poco, sempre in diretta da Vicenza Oro, padiglione 8, quindi veniteci a trovare se volete conoscerci, Radio 24 che trasmette oggi in diretta da Vicenza. Tra le altre notizie di cui vi parleremo nella prossima parte, la storia di un guida che nel parco d'Abruzzo ha ripulito laghetti e ruscelli per far rivivere specie rare proprio nel parco del Gran Sasso, ma pensate, è finito sotto processo lui per illeciti amministrativi, per non aver rispettato la burocrazia. Una storia di resistenza rurale tra poco a effetto giorno. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Quindi, ieri ho preso un maglione, 3 camicie, 2 paia di jeans e una giacca. Niente male per una giornata di saldi, eh? Ma vai, ho preso New York. Pensa in grande con i saldi Air Italy. Prenota entro il 20 gennaio e vola con sconti fino al 25% a New York, Miami, Toronto, Maldive, Los Angeles e tante altre destinazioni. Info e condizioni su airitaly.com. Air Italy. Imagine the world differently. Non so, dici che mi stava meglio Miami? Le tecnologie IoT a supporto della supply chain creano data intelligence per governare i processi del futuro. Al 41esimo SIGEP di Rimini, dal 18 al 22 gennaio, vanno in scena le soluzioni edge to edge di Zebra Technologies. Info su multimac.it. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. È considerato uno dei migliori film dell'anno. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Candidato a 6 premi BAFTA. Non sei un nazista, sei un bambino di 10 anni a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole fare parte di un gruppo. Jojo Rabbit, dal 16 gennaio al cinema. Avete appena sentito un'esclamazione di stupore di alcuni sherpa peruviani di fronte a una smart elettrica. Psst, e basta ridere. In effetti, che ci faceva sulla cima di una montagna? La cosa più bella da fare con una Smart elettrica è guidarla in città. Nuova Smart Q42, All Electric Now, 100% elettrica, 100% per la città. Guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio Mercedes-Benz tutto incluso, con zero anticipo e Wallbox. Datti una scossa su smart.com. Smart, driver di crescita e sostenibilità del settore, ricambio generazionale e impatto tecnologico. Questi i temi al centro di Consulenzia 2020, nella sua special edition aperta a tutti i consulenti finanziari. ANASF, insieme alle più importanti società di gestione del risparmio e di intermediazione finanziaria, vi aspetta a Roma dal 4 al 6 febbraio all'Auditorium Parco della Musica. Radio 24 sarà presente a Consulenzia con la diretta del programma Due di Denari. Tutte le info su radio24.it. Effetto giorno. Iran, la guida suprema Ali Khamenei alla preghiera pubblica, attacca l'America, abbiamo schiaffeggiato gli arroganti e Trump è un clown. Migranti, il 20 gennaio il voto della giunta sul caso Gregoretti Salvini, intanto la Cassazione conferma Carola Rackete non andava arrestata. Ha ripulito Laghetti e Ruscelli per salvare specie a rischio in Abruzzo, ma è finito sotto processo per illeciti amministrativi. La storia di Fabrizio, attivista della resistenza rurale, a effetto giorno. minuti di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. Oggi trasmettiamo in diretta da Vicenza Oro, padiglione 8, veniteci a trovare quindi gli stand della fiera di Vicenza, le eccellenze italiane nel settore orafo. È invece una pagina nera, sicuramente non degna di nessun tipo di eccellenza, quella vissuta ieri a Foggia, ancora un attentato ad un manager anti-clan, e a questo tema è dedicato il punto del vice direttore del Sole 24 Ore di oggi. Il punto di Alberto Orioli. Stavolta questi 60 secondi avrebbero potuto essere semplicemente un minuto di silenzio, per ricordare ammutoliti la stagione di violenza e intimidazione che stanno vivendo i foggiani, taglieggiati da una criminalità impudente. Si dirà è facile dare il sostegno morale a quei cittadini costretti a vivere la sopraffazione e la paura come quotidianità dai nostri comodi uffici milanesi. Ma è anche vero che non darla quella solidarietà sarebbe peggio. Foggia oggi è l'Italia. Fa bene il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a rafforzare il numero degli agenti cui affidare il controllo del territorio. Finalmente! Foggia oggi è una città da liberare. Del resto è stato proprio il territorio a mandare un segnale forte e chiaro nell'ultima manifestazione organizzata da Libera e nei presidi di solidarietà di oggi verso gli imprenditori taglieggiati che hanno avuto il coraggio di denunciare. Il Sud, che fa fuggire il capitale degli investimenti e il capitale umano pregiato dei suoi talenti, è il vero risultato delle mafie, che però il conto lo fanno pagare ai cittadini per bene, due volte, come sottosviluppo e come pizzo. È in atto uno scontro di civiltà, regole e legalità contro violenza e schiavitù. Non c'è spazio per rinvii. A due settimane ormai dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna, invece Radio 24 è stata proprio in Emilia-Romagna, a Bologna, con Raffaella Calandra per fare un punto della situazione su questa scadenza elettorale attorno a cui ruota la politica italiana. Reportage in onda domenica mattina alle 8:15, l'ultima a Stalingrado, l'Emilia-Romagna, alla sfida delle regionali. Sentiamo un'anticipazione. Bologna, una vecchia signora. Finita la piega, Barbara sbotta. Quella bolognina dice non c'è più. Nonostante che io sono di Bologna, non la riconosco più come la mia città. Il quartiere in cui questa donna è cresciuta era il simbolo dell'ultima Stalingrado d'Italia. Ora, proprio qui, dove parrucchieri cinesi pettinano nei locali in cui Achille Occhetto archiviò il PC, non sono pochi a schierarsi con la Lega. Nelle prime regionali in Emilia-Romagna, dall'esito tutt'altro che scontato. Ci ho pensato molto, voto per una delle liste collegate da Bonaccini. Questa non è una periferia di palazzoni dormitorio, ma ugualmente nei capannoni al bar non si discute che dell'ultima rissa o dello spaccio. Quest'anno sarà un voto di protesta. Quello che interessa ormai in questi posti qua è solo la sicurezza. L'Emilia Romagna ha il più alto numero di stranieri residenti in percentuale con la popolazione e dopo la Lombardia, con 9.406 migranti, è anche la seconda regione per accoglienza, fornendo legna al fuoco leghista. protesta. Beh, sicuramente il PD non è più all'altezza della situazione. La campagna elettorale quasi porta a porta del Carroccio ha risvegliato una voglia di partecipazione col debutto delle sardine pronte a tornare in Piazza Maggiore. Sicuramente c'è più intenzione di essere presenti. Nella terra di Don Camillo e Peppone la Chiesa prende posizione contro i sovranismi e gli ex democristiani si schierano per la continuità. Nel nostro interesse, dichiara Gianluca Galletti, da sempre vicino a Casini. Noi oggi abbiamo una regione amministrata bene, sarà un decennio difficilissimo. Tutto è cambiato e tutto è incerto, a conferma di come l'Emilia-Romagna resti ancora una volta laboratorio politico d'Italia. Tredici e 39 minuti di nuovo, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Allora, dato che è venerdì, ci lasciamo con una bella storia, in questo caso con risvolti gialli, però lo anticipiamo subito. Ecco noi Fabrizio Sulli, guida ambientale abruzzese, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. È il protagonista di questa storia. Siamo nel Parco del Gran Sasso, lui è Fabrizio, una guida ambientale, da tempo vive lì, pianta alberi, ripulisce laghetti e ruscelli per ridare agli animali del posto il loro habitat naturale. Ma per far questo, se abbiamo capito bene, rischia di finire o è già finito sotto processo. Fabrizio, intanto dove vivi esattamente? Io vivo in una contrada, si chiama Contrada Rava, del paese di Castelli, in provincia di Teramo. È famoso in tutto il mondo per le ceramiche, artistiche. E la casa è isolata nel bosco, è raggiungibile soltanto con 5 minuti di sentiero, per mia volontà, perché non volevo proprio chiedere, che avevo tutte le carte in regola per chiedere anche di farmi portare la strada a casa, ma non ho voluto quello perché proprio per vivere come vivevano in quel luogo 60 anni fa, senza snaturare assolutamente l'ambiente naturale, il pendio. Perché hai deciso di vivere lì? Per fare cosa? Allora, perché innanzitutto era qualcosa che sentivo già da sempre, fin da bambino, mentre la maggior parte dei ragazzini gli interessavano il calcio, i videogiochi, io la mia essenza la trovavo solamente nelle passeggiate, nelle immersioni totali nella natura. E quindi è stata una cosa di conseguenza, cioè mi è sempre interessato, ma erano escursioni brevi o brevi periodi in tenda, però volevo farne una scelta di vita, quindi tornare a vivere e fare lavori strettamente connessi alla natura, come potrebbe essere piccola agricoltura di sussistenza, piccolo allevamento o anche lavori di sensibilizzazione sui turisti, quindi e qua entra in gioco l'anno scorso il corso da guida che ho sostenuto. Ecco, ma invece come è iniziata? Non abbiamo tanto tempo per approfondire, insomma questa vicenda giudiziaria, di cosa viene accusato, se possibile in poche parole? Sì, allora, i laghetti sono stati, la costruzione dei laghetti, anche la ripulitura del ruscello, per fare anche queste singole cose che venivano fatte anche normalmente 60 anni fa, adesso c'è bisogno di progetti e autorizzazioni, quindi in pratica l'averlo fatto senza autorizzazione ha determinato il fatto che tu sei andato con le tue mani a piedi camminando nel bosco a avere cura dei laghi, dei ruscelli, tagliare qualche erbaccia, a magari portare a mangiare a qualche animale, non so esattamente, tutte cose diciamo che tu hai voluto fare per vivere in sintonia con la natura in un luogo dove si deve vivere con questo ritmo e non si può diciamo entrare con strade, allacci elettrici eccetera, l'aver fatto questo senza l'autorizzazione, questo è il punto, ti porta incontro a che cosa? Rischi il carcere? Il carcere no, però sicuramente multe, multe molto, molto salate, perché comunque ho parlato giusto stamattina appunto con un ricercatore, non conta tanto l'oggettività, che può essere anche positiva dei lavori, ma il fatto che c'è sempre per forza un iter burocratico, qualsiasi cosa che tu vuoi fare, e qui iter che diventa, non è un semplice chiedere il permesso, ma ci vogliono appunto presentare un progetto, scrivere un progetto, quindi praticamente se non hai titoli o soldi per fare queste cose, tu qualsiasi cosa fai, anche se non le puoi fare. Fabrizio, pietra, abbiamo raccontato in non tanto tempo questa tua vicenda, lasciaci però con 10 secondi un'immagine, una bella immagine del parco del Gran Sasso che tu ti trovi, la mattina ti svegli e cosa vedi attorno a te? Allora, io vedo un panorama che nonostante tutto mi dà la forza di continuare. La parete nord tutta rocciosa del Monte Camicia e Monte Prene. È un anfiteatro naturale stupendo di roccia, al centro del quale e alla confluenza dei torrenti vivo io. Praticamente vedere l'alba e il tramonto su queste montagne mi dà una forza immensa nonostante tutto. Io ho chiuso gli occhi e ho sognato grazie alle tue parole, grazie Fabrizio Sulli, guida ambientale abruzzese, grazie per quello che fai e anche per essere venuto qua a raccontare la tua storia. minuti, tra poco più di un quarto d'ora torna l'appuntamento con lo sport con Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Come va oggi? Siamo allora, anticipo di weekend, che succede? Dunque, io approfitto di pochissimi secondi per chiedere ai nostri ascoltatori WhatsApp vocali su due temi. Punto primo, l'Inter ha fatto strike, in un giorno solo si sono sbloccate tutte le trattative, Ashley Young è già arrivato a Milano, arriveranno Eriksen, Giroud e Spinazzola dopo la querela con la Roma. 349-238-6666, cosa ne pensate? Quanto l'Inter si avvicina a questo punto alla Juventus? Secondo tema, Dino Meneghin, icona del nostro sport, domani compie 70 anni, Francesca Piccinini tra l'altro torna ad anni 41, ma avremo Dino Meneghin per fare gli auguri, fateli anche voi, 349-238-6666, WhatsApp vocali. Grazie Carlo, vorrei essere lì con voi per tutti i convocati che si annuncia con temi molto interessanti, calcio mercato, poi Dino Meneghin, appuntamento dopo il GR delle 14 con te e con tutti i convocati, invece noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con la pagina dei giornali internazionali e Giulia Crivelli.